Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giovanni Clementoni, il gioco come lavoro e il lavoro come gioco, di Anna Marino. Buona giornata, benvenuti a Voci d'impresa. Oggi parliamo con Giovanni Clementoni, figlio del fondatore Mario e attuale amministratore delegato dell'omonima azienda. Una vita passata a lavorare giocando e abbiamo chiesto prima di tutto al nostro ospite qual è il suo ricordo migliore in merito al gioco e com'è che ricorda i primi momenti passati in azienda? Qual è il suo rapporto con un'azienda che si occupa di giochi? Più che un gioco in particolare, capisce che un bambino che cresce in una famiglia che produce giocattoli, di giocattoli ne vede tante, per cui non è che si affeziona a qualcosa in particolare. Sicuramente quello che più mi è rimasto impresso questo modo di giocare, che è un modo estremamente legato alla filosofia del modo in cui Mario Clementoni intendeva il gioco, cioè imparare giocando. Se c'è una cosa che ricordo più che un gioco in particolare, il modo in cui mio padre giocava con noi, che era un modo sempre atto a lasciare qualche cosa. Lui di tempo ne aveva particolarmente poco, quindi non passava molto tempo a giocare con noi, ma quando passava tempo a giocare con noi si cimentava a farci imparare qualche cosa, quindi voglio dire una poesia, una filastrocca, delle gare di tabelline o cose di questo genere. Questa è una cosa che mi ricordo particolarmente. E da qui nasce anche un po' l'idea, forse un collegamento, un'associazione del gioco educativo, cioè poco tempo però sì, che abbia significato. Decisamente, questa era una convinzione di mio padre, che è una convinzione che veramente ha in qualche maniera assorbe tutta l'idea dell'azienda, in qualche maniera le motivazioni dell'azienda. Mio padre fa nascere l'azienda per questo motivo. Lui racconta che da piccolo per lui imparare è stata una cosa estremamente faticosa, e ha scoperto che invece questo mezzo attraverso in cui il bambino si diverte e dall'altra parte impara gli ha facilitato molto la vita, e quindi in qualche maniera ha voluto proseguire attraverso un'azienda, quindi una professione, se vogliamo, un po' atipica, che lui sentiva proprio dal di dentro. Proprio la storia è quella che interessa, è una storia nata da un'idea. Suo padre prima lavorava altrimenti in un'azienda di strumenti musicali, poi nasce questa idea. E come nasce l'azienda, i suoi primi ricordi? Ma l'azienda nasce quasi fortuitamente, proprio perché mio padre lavorava nel campo del mercato dello strumento musicale, che era un distretto qui marchigiano, e era agente di un importatore americano. Allora fortuitamente ebbe la possibilità di visitare intorno al 57-58 la fiera del giocattolo di New York, che era una fiera evidentemente molto piena di luci e colori rispetto evidentemente all'economia italiana, e così gli venne questa idea, e si accorse che per esempio nel mercato del giocattolo non esistevano i giochi, nel mercato del giocattolo italiano non esistevano quasi completamente i giochi in scatola, e quindi pensò di iniziare da lì, per intenderci. Questo inizio vede, diciamo, alcuni primi prodotti. Li ricorda agli italiani i primi prodotti con cui loro hanno giocato? Pensi che era l'epoca in cui praticamente l'Italia stava incominciando o rincominciando i primi passi del dopoguerra, quindi voglio dire era l'epoca in cui la televisione incominciava a essere nelle case degli italiani e chiaramente a far parte della vita degli italiani. Quindi mio padre per esempio parte da lì. C'era nei primi festival di Sanremo, mio padre viene in mente di fare una tombola musicale, ecco anche il retaggio qui dell'esperienza fatta nel mercato degli strumenti musicali, una tombola musicale in cui praticamente invece dei numeri venivano estratte delle canzoni che venivano suonate con un organetto che c'era all'interno della scatola. Ogni anno le canzoni venivano rinnovate in base al Festival di Sanremo. Tenga conto che mio padre era in grado di mettere una settimana dopo il festival tutto già la tombola con le nuove canzoni all'interno. E io mi ricordo mio padre al pianoforte che suonava questi motivi e ne faceva evidentemente che poi il nastro che veniva messo in questo organetto. E questo fu appunto il punto di partenza, la tombola della canzone. Poi seguirono altri giochi televisivi, un gioco fra tutti che fece un grosso successo fu la scatola di giochi di prestigio di Silvan, che all'epoca impazzava nelle serate, nelle prime serate della televisione italiana, e da lì poi nacque praticamente e crebbe l'azienda. Poi nel 1968 nacque il Sapientino. Mamma, giochi con il mio Sapientino. Ci ho giocato tanto anch'io da piccola. Da sempre con Sapientino e gli Spinotti imparare è un gioco bellissimo. E oggi c'è anche internet. E da lì praticamente l'idea del gioco educativo e l'azienda prese la conformazione che ha ancora attualmente. Come si ripercuoteva nella vita familiare? Cioè, ci sono dei ricordi particolari, un ricordo che le viene in mente della vita di famiglia legata alla vita di azienda? La nostra è un'azienda che è nata in famiglia, è nata dall'operosità di mio padre e di mia madre, che ha sempre lavorato in azienda fino a 13 anni fa, quindi neanche... E poi ha lavorato per parecchi anni in azienda come responsabile del personale e della produzione. Quindi la mia famiglia era una famiglia che stava a contatto costantemente, noi tutti stavamo in contatto costantemente con l'azienda. Io venivo a fare i compiti in fabbrica, per intenderci, mia madre lavorando tutto il giorno mi portava, mi metteva seduto in un tavolo vicino alla sua scrivania e mi faceva fare i compiti mentre lei lavorava. Ma è chiaro che all'interno della famiglia abbiamo seguito tutti i passaggi dell'azienda in maniera molto molto diretta. Mio padre tornava a casa e era il momento in cui incontrava mia madre forse per più lungo tempo, e quindi parlavano di lavoro con tutto quello che ne consegue, a volte con estrema enfasi e a volte evidentemente con concitazione. E noi all'interno di questa famiglia siamo cresciuti con questa grossa presenza che era l'azienda, e che forse appunto è stato anche il motivo per cui poi tutti e quattro i figli hanno pensato bene di proseguirla, perché voglio dire è stata un'entità così importante anche quando siamo cresciuti. Ecco, appunto, il passaggio generazionale come è avvenuto nella vostra famiglia? Come è stato possibile questo avvicendamento? Ma noi, appunto, dicevo prima, nessuno dei figli ha pensato di andare a fare qualcos'altro se non lavorare in azienda, e questo è stato il primo passaggio. Quindi quando mio padre ha ritenuto opportuno occuparsi del passaggio generazionale, diciamo che ha trovato un terreno fertile, quantomeno ragazzi all'interno della famiglia che avevano intenzione di fare e evidentemente di portare avanti il suo progetto. Il passaggio generazionale è stato tutto sommato semplice, perché individuata la persona che doveva in qualche maniera ricoprire il ruolo di coordinatore di questa prosecuzione, diciamo che gli altri fratelli si sono trovati pronti, proprio perché per educazione venuta appunto da questa convivenza con l'azienda abbiamo avuto sempre un'idea grossa priorità nella nostra vita dei fatti aziendali. Quindi tutto sommato il passaggio generazionale è avvenuto con estrema naturalezza. Oltretutto, diciamo che questo è un'abitudine che avete già avuto e assunto fin da piccoli, al bilanciamento tra la vita e il lavoro. Come si fa a conciliare il tempo di vita, il tempo di lavoro? Cioè, voi l'avete praticamente anche imparato in famiglia, o forse l'avete migliorato? Ecco, come fa lei a conciliarlo di giorno in giorno? C'è una cosa che è di grossa, diciamo, stacco rispetto alla situazione della famiglia in cui io sono cresciuto, è sicuramente che a casa i problemi del lavoro attualmente non li portiamo, anche perché le nostre mogli e i nostri mariti non sono coinvolti nell'attività aziendale e quindi evidentemente a casa difficilmente parliamo di lavoro. Certo è che ritagliare spazi per la vita privata è un fatto da una parte doveroso, e dall'altra parte è sicuramente un po' difficile in termini di tempo, ma è chiaro che quando lo si fa così, in maniera raramente, o comunque quando lo si fa così in maniera un po' concitata, non regolare, la voglia è tale e tanta che staccare è un fatto anche lì molto naturale e anche molto intenso, quindi ritengo che tutto sommato sia connaturato e ripeto, in realtà anche lavorando, anche quando si sta fuori per lavoro, la famiglia la sia sempre, come dire, in testa e accanto. Gli hobby e gli amici sono una cosa che personalmente non riesco, io perlomeno non riesco a coltivare, quindi voglio dire, l'unica cosa che faccio, vado in bicicletta, ma anche lì per andare in bicicletta 2 ore a settimana devo in qualche maniera ritagliare il tempo in maniera un po' forzata, ma per il resto obiettivamente la famiglia e il lavoro già copre abbondantemente il tempo a disposizione. Oh, Teddy! Seguimi! Entra nel magico mondo di Teddy, la penna parlante di Sapientino. Prova ancora! Fantastico! Insieme impareremo le lettere, i numeri, gli animali, l'inglese. 1, 2, 3, follow me! È tutto per questa prima parte di Voci d'Impresa. Noi ci risentiamo tra poco per ascoltare ancora Giovanni Clementoni. A tra poco!